tant che la via ancora gente da capire, una parte si ferma, l'altra ripensa al tempo perso in quella stanza. Dopo due anni quel sogno è sparito, pensavo sarebbe stato più facile pensare a me. Ho chiuso la porta, la mente era storta, storta dal tempo, al tempo è andato via, è andato via con te. Ho perso la strada, la strada si è persa, hai perso la testa, la ricerca di un posto lo vedo. Sono ancora qui a cancellare il tuo pensiero, ma una parte si ferma, l'altra ripensa al tempo perso in quella stanza. Dopo le anni quel sogno è sparito, pensavo sarebbe stato più facile, hey.